La scrittrice Barbara Alberti ha scelto l'esilio. Era da tempo nota la sua decisione di ritirarsi dal mondo. Vive nel faro di Capo Finisterre, all'estremo occidente della Spagna. Da questo luogo, l'esule Barbara Alberti continuerà a tenere vivo il contatto con le donne che la interpellano per consigli in questione di cuore e qualche suo raro amico. Шарманка, шарлатанка, как сладко ты поёшь. La guardiana del faro. Шарманка, шарлатанка, куда меня зовёшь. Voci e pensieri per Barbara Alberti. Шагаю еле. È in arrivo un messaggio nella bottiglia per Barbara Alberti. Già da parecchio sapevo che fra me e mio marito, dopo 15 anni di matrimonio, si era scavato un baratro. L'ultima sua infedeltà mi ha fatto particolarmente soffrire. Una che abita nel nostro condominio, bellissima, sposata, la Bellucci locale, il sogno dei maschi del quartiere. Le stavano tutti dietro, ma lei proprio con mio marito, che è bruttino e senza capelli. Lui continuava a negare. Io gli ho detto: ammettilo e ti perdono. Per un solo momento di sincerità avrei dato tutto. Ma lui, la solita risposta. Sei pazza. Può essere, ma non sono uno scema. E così ho diviso le stanze e lo trattavo come un conoscente. Lui faceva finta di niente. Poi sono stata costretta ad andare con lui al matrimonio di una nipote, dove al microfono tutti pronunziavano un augurio. Lui ha detto: auguro alla sposa che lo sposo non diventi un marito come me. Chiedo scusa pubblicamente a mia moglie per aver intrattenuto una relazione con la signora XY. E fa nome e cognome. Mormorio fra gli invitati, ilarità trattenuta. Io ci sono rimasta di sale. Era una cosa fra noi due. E poi ha sputtanato anche lei, che intanto lo aveva piantato. Il marito ha fatto un casino. Al pranzo di nozze le donne mi facevano dei sorrisetti contriti e un po' sfottenti. Gli uomini a bassa voce si congratulavano con lui, ammirati. «Ma davvero ti sei fatto quel gran pezzo di...» Ho chiesto la separazione, per colpa. Testimoni, tutti gli invitati di quel giorno. Enrica 73. Senti, gli sta veramente bene a quel vanitoso. Perché lui, con la scusa di chiederti scusa, sei vantato. E difatti sei meritato l'invidia di tutti gli altri pretendenti delusi che correvano dietro a questa Bellucci di quartiere. Adesso il suo trionfo lo sanno tutti. In un colpo solo si è vendicato della bella che lo ha lasciato, delle sue amichette del liceo che magari gli preferivano dei ragazzi più aitanti, e si è procurato un passaporto amoroso per le avventure future. Adesso le donne anche lo guarderanno con altri occhi. E non è meno elegante il comportamento di tuo marito di un personaggio indimenticabile che ho conosciuto in gioventù. Lo chiamavano il colonnello, in verità era un ex militare, sannita del Sannio, di basso grado. Ma lo chiamavano il colonnello perché, per la sua maestà, perché si presentava benissimo. Era una figura da libro di storia, baffoni, questa chioma bianca, boscosa, solenne. Sembrava un'illustrazione del generale lì, nella gloria delle sue battaglie. E lo invitavano sempre alle feste per questo, perché era decorativo, faceva fare bella figura. E lui non parlava quasi mai. Si sedeva, tutto impettito sul divano, guardava le donne che entravano e una su tre dava una gomitata al suo vicino, se era maschio, e diceva: «La vedi? Io quella me l'ho fregata!» Non occorre andare così lontano, perché di recente un altro fratello in spirito del colonnello e di tuo marito è stato questo noto politico che, dato che si chiacchierava moltissimo di una relazione con una famosa ministra, famosa per la sua grande bellezza, lui a un certo punto è andato in televisione e ha spiattellato tutto, chiedendo scusa a sua moglie, con la scusa, come tuo marito identico, con la scusa di rendere giustizia alla moglie, quindi l'ha fatta cornuta davanti a tutta Italia, no? E questo politico, nemmeno lui che sia un mister universo, no? Un po' come tuo marito. E mentre lo diceva io ero incantata, pensavo: ma guarda che pubblicità erotica che si sta facendo questo, che grande riscatto per un uomo non avvenente per un momento nel teleschermo risplendeva, no? Risplendeva di fascino, come il colonnello Sannita, circonfuso della gloria di questa relazione fiabesca. E in un colpo solo lui ha reso pubblico il torto alla moglie, quindi lo ha amplificato all'infinito senza riguardo, e ha sputtanato anche la sua ex amante. Chissà, magari, che anche lui, come tuo marito, non si sia vendicato, che magari era stato mollato. Io mi ricordo che fra i commenti, ma non quelli della stampa, io parlo commenti di conoscenti, della gente, avessi sentito una parola di solidarietà verso la moglie. No, preciso come alla festa di nozze. Ammirazione, incredulità divertita. Hai visto però quello lì, bassino, bruttino, però si è portato a letto quella donna. Ora posso immaginare quanto lei sia stata grata per essere stata offerta in pasto a milioni di spettatori sghignazzanti in questa sagrestia licenziosa e boccaccesca che è l'Italia. Ci sono forme molto peggiori di questo viziaccio di dire le cose più intime coram populo, secondo me per svuotarle di ogni verità, e questo è di una bruttezza rara. Ricordo una cosa ancora più brutta, proprio con un senso di vergogna lì per lì, mio, proprio perché stavo lì a guardare in televisione un cantante molto famoso pochi anni fa, che per 36 anni si è rifiutato di riconoscere la figlia, e lo ha fatto senza avvertirla. Gli ha fatto sta bella sorpresa durante uno spettacolo in diretta TV, e lei era lì, la figlia, questa ragazza che era diventata grande col peso di questo rifiuto, e lui le concedeva la paternità dall'alto, davanti a tutti, derubandola anche dell'intimità che quel gesto avrebbe richiesto, facendogliela pagare con una umiliazione che lui faceva passare e probabilmente credeva un grande onore. Perché certo che poi magari fa piacere, una volta che la cosa si sia saputa, che lui desse pubblicità, che lo sapessero tutti, ma prima io e te, tu mio padre, io tua figlia, e voglio essere riconosciuta da te in quel momento, noi due soli, come sempre sono stata sola mentre ho aspettato questo momento. Volevo ringraziare quelli che sono venuti a leggere le poesie di Umberto Polignano su Facebook. La settimana scorsa erano ben 1100, questa settimana sono ancora di più, e quindi sono molto contenta dell'interesse per questo importante poeta. In tutto, ecco, Gloria ha in mano anche i numeri, 2172, questo mi piace. La guardiana del faro. E in arrivo un messaggio nella bottiglia per Barbara Alberti. Cara Barbara, durante le vacanze ero in viaggio con la famiglia, col bambino di 7 anni e mio marito. Guidava lui. In una strada di campagna, una curva, ci è venuto addosso un camioncino. Lui per schivarlo ha sbandato e siamo caduti nel dirupo. Per fortuna il volo è stato breve. Un albero ci ha fermati dopo 2 metri e non ci siamo fatti niente. Ma non posso dirti il mio sgomento nei pochi infiniti secondi dell'incidente. Il dolore tremendo di non poter proteggere il bambino, di trovarmi con lui in un pericolo mortale nel quale eravamo alla pari, fuscelli al vento. Il senso di terribile impotenza. Mio marito poi mi ha detto di avere provato la stessa cosa. Raffaella. Beh, la personificazione di questa paura che abbiamo tutti noi genitori di non riuscire a proteggere i nostri figli, perché noi diamo la vita ma non possiamo garantirla. Ecco, c'è questa poesia che si chiama Il re degli ontani di Goethe, ve la leggerò nella traduzione di Alessandra Zardo. Tra l'altro c'è una cosa curiosa: il vero titolo di questa ballata di Goethe era Il re degli elfi, però c'è stato un errore di traduzione. La parola elf è stata confusa con la parola erle, devo dire un errore madornale per un traduttore, da cui questo titolo sbagliato, però bellissimo, molto suggestivo. Ed è la storia di questo padre che galoppa con questo bambino, sul bambino incombe un pericolo, lui lo avverte, il padre non gli crede, il padre non sa proteggerlo, il bambino muore. Ad ora si tarda, chi è che galoppa di notte col vento? È un babbo che in groppa a seco il figliuolo, lo tiene protetto dal gel fra le braccia, lo stringe sul petto. Perché c'è il viso, figliuol tra le mani? O babbo, non vedi tu il re degli ontani? Il re degli ontani col serto e col manto. Io vedo una striscia di nebbia soltanto. Orsù, vien meco, fanciullo mio, giocare bei giochi con te voglio io. O babbo, Non odi tu quale promessa il re mi sussurra con voce sommessa? Tacchetta, figliuolo, qual tema ti coglie? È il vento che soffia fra l'aride foglie. Venire voi meco? Le mie figliuole di notte intrecciano vaghe carole. Dolci canzoni ti canteranno, ti veglieranno, ti culleranno. O babbo, ve il buio più fitto, non vedi, del re degli ontani le figlie? No, credi, io bello discerno, figliolo, fa core. Di salici antichi non è che il biancore. Le tue madescano forme leggiadre, vieni o ti strappo, bimbo, a tuo padre. O babbo, mio babbo, del re degli ontani, terribili adunque, ma ferra le mani. Il padre via sprona, compreso d'orrore, e il figlio che geme si stringe sul core. Al tetto perviene con ansia, a gran stento, ma qui, fra le braccia, giaceva gli spento. È molto inquietante questa ballata in questa curiosa traduzione ottocentesca, perché sembra adombrare, nella sua così apparente semplicità, tanti orrori, uno dei quali è per esempio la totale sconoscenza che spesso i genitori hanno dei loro figli, e anche, in un certo modo, sembra una parabola anche della pedofilia. La seduzione che tenta il re degli ontani è una seduzione molto, molto morbida, molto, e anche in un certo modo violenta e morbosa. Chissà cosa voleva dire il poeta. A noi non resta che leggerlo. Messaggio nella bottiglia in arrivo per la guardiana del faro. Mi chiamo Angela. Tutte le domeniche ascolto con piacere la sua trasmissione radiofonica. Gradirei esprimere e condividere il tema che mi colpisce di più, il tradimento. Non solo quello di coppia, che mi ha coinvolta in un periodo della vita. Lei ne ha parlato spesso, però credo che non basti mai, in quanto reputo con molta sofferenza la nostra natura traditrice in assoluto. Pur avendo una gran fede, non mi sento chiusa e bigotta. Sento forte la necessità di farmi e di farle una domanda. Ma i valori assoluti dove sono finiti? L'amore, quello a 360 gradi. Starei qui delle ore a scrivere, ma non voglio annoiarla. La ringrazio infinitamente per aver prestato attenzione a questi miei semplici pensieri. Il mio poeta preferito è Rabindranath Tagore. Le offro questa poesia che trovo meravigliosa. Non partire, mio amore, senza avvertirmi. Ho vegliato tutta la notte e ora i miei occhi sono pesanti di sonno. Ho paura di perderti mentre dormo. Non partire, amore mio, senza avvertirmi. Angela. Già, dov'è finito l'amore? Sai, Angela, l'uomo se lo chiede da quando articola un pensiero. Ma come, dov'è finito l'amore? Era qui un momento fa, dove l'ho messo? Però per l'odio non c'è problema, eh? L'odio non c'è bisogno di cercarlo. Sta sempre qui, a disposizione, dentro e fuori di noi. Dopo la tua lettera ho visto una foto che molti conosceranno su Facebook, che viene dal Sudafrica, è molto famosa. Storicamente Sudafrica, come sappiamo, uno dei più tremendi mattatoi del razzismo e dell'arroganza occidentale. La foto ritrae un giovanottone col fucile in mano e quell'aria scema e feroce del cacciatore orgoglioso, un ginocchio sulla preda. E la preda è un bambino africano, ucciso, di pochi anni. Ora, quando anche fosse un fotomontaggio, il suo valore simbolico e solo il fatto di averla mandata in rete è molto forte. E ci ricorda che discendiamo dalla scimmia assassina. L'amore, Angela, è raro, non solo fra due. L'umano è imbarazzato dall'umano. Mi ricordo un clochard nel metro di Parigi aveva un cartello: «C'est l'autre qui gêne», è l'altro che ci imbarazza. Ci dà fastidio la fisicità, l'odore dell'altro. Tu pensa al disagio in ascensore che tutti proviamo nel condividerlo con un nostro simile. È la metafora del rapporto fra bipedi. Non vediamo l'ora che scenda o che scendiamo noi. Quella contiguità senza confidenza ci sembra intollerabile anche per pochi secondi. Tanti anni fa, viaggiando in India, e parlo di un'India di 20 anni fa, non so come oggi, la comunione dei corpi è molto più naturale. Per esempio nei torpedoni la povertà è più pietosa, ha meno paura, meno schifo del corpo altrui. Qui da noi è sempre più sfrenata l'educazione alla diffidenza, e questo amore a 360 gradi che tutti vorremmo dagli altri e magari non ne siamo capaci, dov'è? Finiamo sempre per relegarlo nel passato, in un passato che non c'è mai stato, o nei grandi romanzi, lì ce n'è tanto, sempre infelicissimo peraltro. Però esiste, ma esiste dal momento che lo provi. Io ti posso dire che l'ho visto e provato e conosco delle persone che si vogliono semplicemente bene da tanto tempo. E sono quelli che lasciano la porta aperta, quelli che accolgono, quelli che si aspettano qualcosa. Si dice che il costo dell'amore sia altissimo, ma la durezza di cuore costa di più. Perché è vero che d'amore si muore di rado, ma molto più spesso se ne vive. A volte sfidando tutto intorno, specie quando le tue inclinazioni sessuali non sono conformi. Sandro Penna lo ha saputo dire in 4 parole. Amore, amore, lieto disonore. Ho detto tante volte che, secondo me, giova, almeno per l'esperienza che io ho, giova a non diventare delle orribili coppie, ma a continuare a volersi bene, avere un interesse in comune. E ho sempre preso, per esempio, le coppie del signor Ercoli, pizzicagnolo, che vende salami, prosciutti, formaggi in una bancarella al mercato, insieme a sua moglie Silvia, e poi dei vicini che si chiamano proprio vicini, Marcello e Assunta Vicini, macellai, e purtroppo per un caso di mala sanità adesso Marcello e Assunta non hanno più questo banco al mercato, e spero che ci sentano per mandare il mio saluto con un ricordo affettuosissimo. Allora, ho pensato di chiamare comunque Antonio Ercoli e sua moglie Silvia, perché io queste coppie al mercato, almeno loro, li ho sempre visti così contenti, ma così con un dialogo che si capisce che continua, cioè voglio dire, li guardi e da ogni gesto si capisce che l'avventura non è finita. C'è il signor Ercoli in linea? Sì, sì, Antonio, sì. Oh, Antonio, buongiorno. Buongiorno. Sono Barbara. Senta, noi vi portiamo sempre d'esempio, ma magari mi sbaglio, magari voi vi corcate di botte dalla mattina alla sera. No. L'impressione che date è di una grande concordia e di un rapporto molto vivo. Mi vuole raccontare un po' come vi siete incontrate con Silvia, come è nata questa idea di un'attività comune? Di comune Barbara è nata così, io faccio questo mestiere sempre, ho 68 anni, ho conosciuto mia moglie che era una cliente dove io lavoravo, poi ho preso un banco in gestione dal 70, che oggi sono belli 41 anni che siamo qui a lottare la pagnotta, diciamo. Sì. Noi ci stiamo bene perché ci vogliamo bene, perché ci capiamo e ci sopportiamo a vicenda, la coppia va avanti anche per questo, perché uno quando conta fino a 10 poi riesce sempre a non rispondere a quello che vorrebbe di subito, diciamo, di fatto, no? Ma secondo lei, Antonio, il fatto di avere appunto un interesse in comune, di avere questa attività comune... No, non c'entra niente l'interesse in comune, Barbara. Per andare d'accordo la coppia non è una cosa che qui io non ho visto tanti le coppie... Ma non vi ha unito questa cosa, no, eh? No. La cosa è l'unione è un'altra cosa, cioè c'è l'amore e l'interesse insieme, va bene, però c'è il rispetto di entrambe le persone. Io poi sono un tipo molto aperto, io ho sempre detto tutto, non mi ho mai nascosto niente, sia nel bene che nel male. Tante coppie invece che fanno? Il marito riesce a nascondere alla moglie quello che non dovrebbe nascondere. Ma cioè... quindi, caro Antonio, hai smontato il mio teorema. Io vedo che le corna si mettono tutte nel posto di lavoro. Sì. Perché alla fine ha degli interessi in comune. Barbara, la sera cosa racconti a tua moglie che ha fatto un'altra cosa? Due proposte ne ho avute tante qui. Cioè, molto corteggiato? Lo sa anche mia moglie, non è che io sono passato da gay con persone che mi hanno invitato, io ho rinunciato, cioè anche perché la famiglia, ho messo sotto questo punto di vista. E io l'altra volta ho detto no, perché non perché non mi piaceva la persona, però per la famiglia però. Poi, ah, cioè, quindi ci sarebbe anche stato, soltanto che poi c'è la famiglia. Sì, poi c'è il posto di lavoro. Cioè più seguito della moglie. Io ho visto posti di lavoro come il mio, diciamo, che hanno avuto rapporti con extraconiugali, poi hanno chiuso. È finita l'attività perché poi quell'altra parte voleva tutto. E quindi sono pasticci dai quali non si esce, insomma. No, lì non se ne esce. E quindi lei è stato virtuoso. Non sono entrato mai nella. A volte virtuoso per necessità. Ho fatto male, però io dico sempre che ho fatto bene. Grazie Antonio, posso parlare anche con Silvia? Sì, te la passo subito. Grazie Antonio, ciao, sei stato gentile, molto. Ciao. Pronto? Pronto, Silvia, sono Barbara. Buongiorno signora. Buongiorno. Tutto. Senta, ho un po' parlato con Antonio, sì. E lui dice appunto che il fatto della vostra concordia c'entra poco col fatto di fare un lavoro insieme. Certo. E lei è d'accordo? Sì. Noi ci prendiamo abbastanza, anche troppo. Anche troppo in che senso? Anche nel senso che tante volte dico facciamo una cosa nuova, litighiamo, perché non litighiamo mai. Però non c'è noia. Sì, no. Oh, Antonio mi ha detto che una cosa che mi apre un mondo, perché io non ho mai pensato, non ho mai visto, sono abbastanza attenta agli altri umani, però non ho mai notato che ci fosse tutto questo grande fermento erotico al mercato, perché mi ha detto che lui è stato più volte, la sua virtù è stata... Sì. A avuto degli attentati dagli clienti, insomma, che è stato molto corteggiato, con delle proposte esplicite e via dicendo, e che lui dice che ha sempre resistito. Lì è stato molto sincero, sconcertantemente sincero, ha detto, per non rovinarsi la vita e per la famiglia. Ma perché quello è un grande palcoscenico amoroso, in fin dei conti. Il fatto voi un po' sopraelevati in questa casetta del presepe piena di prosciutti e di mortadelle, di suggerite proprio evidentemente qualcosa di festoso, di erotico. Lei concepisce un matrimonio senza che sia anche una grande amicizia? Sì, secondo me sì. A parte l'amore, no? Ma ci deve essere anche quel senso di amicizia, di poter parlare di qualsiasi cosa. Quindi lei lo risposerebbe domani, Antonio? Io lo dico sempre, io non mi risposerei, ma se mi dovessi risposare solo con te. E lui mi dice un'altra volta. La guardiana del faro. Molti appassionati di Oscar Wilde conoscono Teleni, questo breve libro uscito in Italia con Savelli nel 1984 con la prefazione di Franco Cuomo, e l'autore veniva designato come in copertina come Oscar Wilde con un punto interrogativo, perché il libro è così audace, così imbarazzante, diciamo, che gli si nega l'attribuzione. Ma imbarazzante non so per chi, veramente, io lo trovo molto bello. Oscar Wilde nasce in Irlanda nel 1954 ed è figlio di intellettuali. Il padre è medico e anche scrittore. La madre colta, anticonformista, stravagante con ostentazione, bella, arguta, e sarà il modello del figlio per tutta la vita, anche se dalle testimonianze si pensa che dovesse essere anche parecchio ridicola. E questa madre era un modello ma anche una rivale, e questo verrà fuori con molta chiarezza nel romanzo Teleni. Oscar, appena gli piace un ragazzo, è con la madre che si misura. Ha questa gelosia fantasmatica per cui gli sembra impossibile che chiunque non debba preferirla a lui. Guarda un ragazzo, magari il ragazzo lo guarda con interesse e dice, perché non conosce mia madre, altrimenti si butterebbe. Comunque questa adolescenza, questa infanzia, è una vita abbastanza allegra, coi drammi della bohème, mancano sempre i soldi all'improvviso, però si trovano sempre per il superfluo e poi avventurosamente si rimedia, e comunque il salotto letterario della madre prospera. Ma Oscar vorrebbe degli spazi più ampi. Lui vuole debuttare come protagonista, senza la madre accanto che lo oscura. E quindi andrà a Oxford, e Oxford sarà il suo primo palcoscenico indiscusso. Su Oxford piomba questo ragazzino irlandese che lascia tutti secchi con le sue battute, diventa brevemente il più popolare del college, anche se molto discusso, e questo non fa che aumentare la sua popolarità. Le sue stravaganze nel vestire fanno scuola, non osano imitarlo gli altri, ma come direbbero oggi è il più figo di tutti, anche perché i suoi componimenti, le sue poesie sono originali, impeccabili. Insomma, è un leader, e doveva essere anche un incanto con l'ingenuità che c'era dietro questo suo dandismo. Quando debutterà nella buona società di Londra, la fama di genio che ha acquisito Oxford lo ha preceduto, e molto presto conquista la città. Le commedie, i racconti, i romanzi, ma soprattutto i suoi motti, lo fanno diventare presto molto celebre, acclamato, criticato e alla moda come nessun altro. Intanto si è sposato con Constance, ha avuto due figli, però presto il matrimonio non regge, si separa per vivere liberamente i suoi amori. Si è innamorato di questo giovane lord, Alfred Douglas, che viene chiamato Bosie. Loro due si divertono come matti, a fare gli angeli maledetti, a scandalizzare tutti. Sono i più invidiati di Londra, i più chiacchierati ma anche più invidiati. Join a group and you will find harmony and peace of mind, make it better. Siamo nel finale dell'Ottocento, quando in Inghilterra la sodomia era reato, e ti potevano spedire in fortezza, come poi accadrà a Oscar. Lui e Bosie costeggiano il rischio, però salvano sempre un brandello di forma, anche perché poi hanno la legge contro. I ragazzi che vanno a dragare insieme non parleranno, perché sono ben pagati anche per questo. Insomma, si prendono le loro piccole garanzie. Però a questo punto c'è l'incontro fatale, ovvero il terzo uomo, l'uomo chiave di questa vicenda, ovvero il padre di Alfred Douglas, il padre di Bosie, marchese di Queensberry, famoso ancora oggi per avere dettato le regole del pugilato moderno. Questo marchese John Sholto Douglas era un cultore, anzi un fanatico della virilità, di una virilità esaltata nella sua violenza da uno sport come la boxe, e ha un conto aperto col figlio. non gli va giù che sia omosessuale, non gli va giù l'aspetto, perché è molto bello Lord Douglas, è una bellissima bambolina bionda, e che abbia una vita galante con un uomo scandaloso come Oscar Wilde. Padre e figlio si detestano a morte. E Oscar non si accorge che Bosi sta facendo di lui uno strumento di questo duello, che alla fine è l'unica cosa che gli interessa, il duello col padre. Da questa stretta Oscar uscirà frantumato, perché Bosi odia anche lui. Lui è un mediocre ed è in feroce competizione. Gli pesa la fama di Oscar, ma se ne serve. Gli pesa il talento di Oscar, perché anche lui scrive, maluccio, e invidia il suo amante. Fra loro ci sono molti dispetti, molti colpi bassi. E lo odia anche perché il padre, per vendicarsi di questa relazione, gli taglia i viveri e deve pagare Oscar. E Bosi lascia naturalmente che paghi, anzi sperpera, a piene mani, ma gli porta rancore per questo. Perché gli ingenerosi ti portano rancore di tutto. Bosi sarà lord quanto gli pare, ma ha la mentalità della marchetta più banale. Si sopravvaluta al punto che considera giusto sacrificare Oscar alla meschinità dei suoi dispetti. Un giorno il marchese di Queensberry lascia al club una lettera a Oscar Wilde, che si atteggia a sodomita. Oh, lui ha scritto che si atteggia per pararsi rispetto alla legge, ma in verità è una chiara accusa. Oscar rimane sconvolto, annientato. Sa come sia precario il favore del pubblico. Un conto è corteggiare lo scandalo e un conto è caderci dentro. Ma Bosi lo istiga a querelare il padre, a dare battaglia. Lo sfida, ma che avrai paura di lui? E allora Oscar, sfidato nell'orgoglio, debolissimo, denuncia il marchese per diffamazione. Tra l'altro lui è così convinto del proprio fascino e crede che con le sue battute coprirà Queensberry di ridicolo, lui abituato al trionfo, e pensa che sarà così anche stavolta. E poi, una volta sul palcoscenico del tribunale, e chi lo tiene più, è un grande teatrante, un grande improvvisatore, quindi la vanità del teatrante prende il sopravvento. Dice delle cose compromettenti pur di stupire, pur di far ridere. E infatti la gente ride, corre ad accalcarsi, come ad una prima, il più grande spettacolo che ci sia a Londra, questo processo Oscar Wilde. Anzi, il processo che lui ha intentato al marchese di Queensberry. E a questo punto il marchese lo inchioda, il marchese ha le prove. I prostituti pagati da Oscar sono pagati ancora di più dal marchese per testimoniare. Alcuni inventano, altri dicono la verità. Comunque, questa storia delle orge viene fuori. Oscar viene condannato a 2 anni di lavori forzati. E da allora non si riprende più. L'Inghilterra l'ha cancellato, ormai è diventato un intoccabile in questa società ipocrita. E lui riprova dopo il carcere a tornare con Bosi, ma è un tramonto cupissimo. Oscar muore nel 900 a Parigi, all'Hotel d'Alsace, in compagnia di una carta da parati oltraggiosa per un esteta come lui, che gli avvelena gli ultimi giorni. Oscar Wilde porta il carcere con dignità e addirittura con un po' di retorica e un po' di pompa, diciamo, paragonando il suo martirio a quello del Cristo. Lui è orgoglioso del suo Golgota e scrive il De Profundis, una lunga lettera libro dedicata a Bosi, che è molto noioso perché lì vuol sempre avere ragione lui. Lui è la virtù e Bosi è il mostro. Un'autoesaltazione senza ironia che non va molto lontano in letteratura. Ma in compenso c'è Telen, il romanzo che lui ha misconosciuto. E che mi sconoscono anche gli studiosi wildiani. Io credo che il peccato di Oscar Wilde non fu la superbia, ma fu il romanzo Teleni. Fu anzi un atto di audacia mancata. Lui diceva sempre che aveva messo il genio nella vita e solo il talento nelle opere. Invece Teleni, a mio avviso, è perfetto. Il suo peccato è stato non aver mai osato rivendicarlo. Quel libretto pornografico, come viene definito, che racconta l'amore fra due giovani, Camille e il bellissimo Teleni, pianista, è l'unico scritto di Oscar Wilde, completamente sincero. Lo studioso wildiano, che Dio lo perdoni, ma non credo, dirà che c'era una libreria in St. James Street a Londra, dove un romanzetto erotico, Teleni, e questo cito appunto lo studioso, passava clandestinamente di mano in mano e ognuno ne scriveva un capitolo. Anche il grande irlandese partecipò al gioco, ma senza quasi lasciare traccia. E invece la traccia c'è, come? Il romanzetto corale c'era, ma leggendolo si ha l'impressione che Wilde lo abbia preso in mano e ne abbia fatto una cosa sua, più di qualunque altra. Il libro era troppo spinto allora, persino per l'autore, la cui provocazione qui è proporre l'amore che non può dire il suo nome come un ghetto grandioso e disperato, dove l'orgia, la paura, l'audacia sono estreme. Per la bella società vittoriana che acclamava Oscar Wilde, lui era un artista inquietante ma accettabile, cioè fino al ritratto di Dorian Gray ci potevano ancora stare. Era una trasgressione alla moda, il sollievo di un brivido nella rigidezza dei costumi, ma il dannato, l'innovatore della passione più antica del mondo, si è espresso solo in Teleni, davanti al quale il De Profundis è facciata. E credo che sia un segno di scarso amore da parte dei critici rifiutarsi di attribuirglielo. Secondo me il peccato di Oscar Wilde è stato rifiutare l'unico testo dove rinuncia alla mascherata della vanità cristiana e all'orgoglio del martirio e confessa la verità sul sesso e anche sul terrore di essere scoperto come uraniano, come si diceva allora. La guardiana del faro. Stavo raccontando la storia del romanzo Teleni, che adombra molte verità su Oscar Wilde. They fall from your mouth. Ci sono almeno 6 verità in quel romanzetto, lo metto tra virgolette, che Wilde non ha mai detto altrove. Intanto, la ripugnanza verso la donna. Uno dei due amanti, Camille, che poi è Oscar, mentre viaggiano in carrozza, incontra una ragazza che gli piace. Ma alla prima sosta, questa ragazza si rivela una creatura immonda, che lo lascia esterrefatto, perché lo sorprende in un vialetto, nel pieno di un'attività che un gentiluomo non può perdonare. Ecco cosa racconta. Che spettacolo mi si presentò. Il soggetto della mia infatuazione era accovacciato, a gambe divaricate, con le sottane sollevate e un torrente di liquido giallo scorreva sulla ghiaia, accompagnato dal rombo di una terribile cannonata proveniente dalla parte posteriore. Sdegnato Camille, da allora, chiude con le donne. Io lo trovo sublime, questo alibi è così ridicolo che è sublime, ma il pezzo di bravura visionario è nella scena del bordello, dove il disgusto diventa panico. Persino l'edificio dove vanno, questo che ospita il bordello, diventa una metafora del sesso femminile, come qualcosa di infetto, viscido, intoccabile. Salì per una scala chiocciola sporca di grasso e appiccicosa. Mi ripugnava appoggiare la mano alla ringhiera, ma senza tenersi sarebbe stato impossibile arrampicarsi sugli scalini melmosi. Ci accolse una vecchia megera, le gengive prive di denti, le labbra pendule come le ventose di una piovra. Ed ecco si manifesta l'orrore degli orrori, il sesso femminile in persona. La massa scura dei peli si aprì, scoprendo due enormi labbra dal colore e dall'aspetto della carne da macello. In mezzo vidi qualcosa di simile alla punta di un pene di cane, rivolto verso la mia bocca. E poi, a sorpresa, la verità contraria, l'attrazione verso la donna. A sorpresa, una storia di una delicatezza struggente. Oscar diceva di sé: «Mi capita a volte di essere un po' mulierasta, ovvero preso dalle donne», e lo dimostra nella creazione di questa servetta che Camille seduce, tentando di scordarsi di Teleni in un momento in cui si sono lasciati. Camille la abbraccia, la corteggia, la fa innamorare, però va a letto con lei, ma non osa sedurla fino in fondo. Si rifiuta di deflorarla e le dice la frase più brutta del disamore: «Non voglio farti soffrire». «Ma come? Se mi vuoi bene, vuoi farmi soffrire?» E mentre sta per penetrarla, le chiede: «Posso possederti?» È domanda sbagliata. Lei lo ama e risponde già delusa: «Fate come volete, ma se mi lasciate, mi ucciderò». E lui dunque preferisce di no. C'è uno stalliere che voleva sposarla e, dato che segue questa storia con una terribile gelosia, per vendicarsi del tradimento, la trova da sola un giorno e la violenta selvaggiamente. Camille corre perché la ragazza grida. Lui accorre, è troppo tardi. Il bruto è lì, mezzo sconvolto, e la ragazza è saltata sulla finestra, è in piedi e li guarda tutti e due con uguale disprezzo. e si butta di sotto, vittima di un doppio stupro. Quello troppo brutale dello stalliere e quello troppo scrupoloso di un gentiluomo non abbastanza innamorato da diventare amante. Camille, innamorato di Teleni, il pianista, che non si rassegna a quella passione irregolare, resiste per molto tempo a Teleni, ma quando poi alla fine si abbandona ed è delirante di felicità, riceve un biglietto anonimo. Lasciate il vostro amante o sarete denunziato come Anquilé. E qui finalmente Oscar Wilde confessa la paura. La paura di essere segnato a dito, il sodomita, non la parata di eroici sentimenti del De Profundis. E non aveva torto, perché poi vediamo appunto che si è fatto 2 anni di lavori forzati. Ecco, prendiamo il De Profundis e il Dorian Gray. E in trasparenza vedremo Teleni. Teleni è il loro rovescio. È il riscatto dal coraggio inumano che ha sempre inalberato Oscar Wilde. La paura era più forte di qualsiasi sincerità. O peggio ancora, lo smacco d'aver paura. Meglio vergognarsi e basta che essere dannati a mezzo. E qui c'è una grande scena. L'orgia. A questa orgia di Brian Coore, che è un loro amico, all'inizio sembra una festa normalissima, rispettabilissima, una festa di gente di alto rango, ci sono gentiluomini, dame, magnificamente abbigliati. Poco a poco si scopre che sono tutti maschi. E non sono maschi qualunque, sono pari d'Inghilterra, soldati valorosi, scienziati, alti prelati, illustri magistrati. E con un piacere aumentato dal sapore della paura, Camille partecipa a questa orgia. E son delle pagine. Camille vestito da regina Vittoria. Ora, se ci pensate, Wilde con una cuffietta era identico alla regina. Fra gli invitati discinti con le verghe di fuori, calze da donna, parrucche, collie di perle, bistro e rossetti. In piedi serissimi, con delle belle voci, cantano God Save the Queen. Al culmine dell'orgia, un intrepido spy, un soldato famoso per l'eroismo in battaglia, nell'entusiasmo dei sensi, scommette che riuscirà a farsi introdurre nell'ano una bottiglia di doppio Kummel, quadrata. Pare impossibile, ma lui non ha paura di niente. Con l'aiuto di un pâté de foie molto morbido, l'operazione ha successo sotto gli occhi increduli di tutti i partecipanti all'orgia. E mentre stanno tutti lì col fiato sospeso, si sente un crack. La bottiglia si è rotta. A questo punto non resta che l'ospedale. Bene, per evitare il disonore dell'ospedale, il soldato si spara la testa. Mossa, trovo, politicamente straordinaria. Wilde ha introdotto il codice d'onore in un festino di uraniani. Ha creato l'eroe gay, l'intrepido. E poi c'è questo finale. Nel romanzo c'è un momento di piena felicità tra Camille e Teleni, però c'è un'ombra. Teleni non è un uomo libero. Teleni, che è un grandissimo artista, però guadagna poco e oppresso dai debiti. E allora Camille, che invece è ricco, si offre di pagarglieli. E Teleni naturalmente rifiuta. Ma questo disgraziato, asino, che amante sei? Non ci si offre di pagare i debiti, si pagano. Non ha imparato niente dalla servetta, Camille. L'amore non chiede il permesso. Ma come si fa a domandare all'amato «Posso pagarti i debiti?» Ma la risposta non sarà mai sincera e sarà segretamente sdegnata. Guai all'amante che appoggia la sua avarizia a questa funesta domanda. «Vuoi?» «Ma certo, salvami tu se mi ami. Salvami, ma come in sogno, senza nemmeno farmelo sapere. Se no, se mi costringi a dire sì, se mi umili, a che vale l'amore?» E Teleni morirà come Madame Bovary, ucciso dai debiti. E qui ci sarà l'orribile scoperta, ovvero un vecchio sogno. Teleni ha detto a Camille, Teleni pianista, ha detto a Camille che deve partire per un concerto. E con quei soldi, dice, metterà a posto le finanze. Ma Camille passa davanti alla casa di Teleni, sta tranquillissimo, sono nel pieno dell'intesa, e invece vede che ci sono le luci accese. Allora non è partito. Ha un sospetto, non suona. Entra di nascosto, ha le chiavi, entra di nascosto. Grande silenzio. E dal buco della serratura sorprende un amplesso ardente, frate Eleni e una donna, di cui non vede la faccia, di cui riesce a vedere soltanto il bellissimo corpo nudo. Finché, non resistendo più, spalanca la porta, irrompe nella stanza, vede la donna. La donna è sua madre. Eleni, scoperto, per la vergogna, si pugnala. E morendo, dice l'amante, tua madre, debiti. Tua madre, debiti. Ecco, sfido gli studiosi wildiani a produrmi un'altra opera dove Wilde abbia dato corpo al suo sogno più antico, dividere un amante con la sua bella mamma. La paternità di questo romanzo però gli viene negata perché, secondo i critici, Wilde non era rablesiano, ma era wildiano. E questo ancora oggi non si sa bene che cosa voglia dire. Qui capitaneria di porto. Interrompiamo Barbara Alberti che parla dal faro di Finisterre. L'energia a disposizione è esaurita. Riattiveremo il collegamento tra una settimana. La Guardiana del Faro è un programma di Barbara Alberti, ideato da Gianluca Nicoletti. Realizzazione tecnica di Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti, a cura di Gloria Guerrera.